Al Volga non si arriva. Lo speciale di Van Loon in 4 puntate per gli 80 anni dalla battaglia di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado è la battaglia più importante della Seconda Guerra Mondiale, evento centrale per il conflitto bellico e per la costruzione dell'identità antifascista internazionale. È stata la battaglia decisiva che ha segnato la svolta della guerra. Da quel momento in poi inizia infatti la ritirata dei nazisti. In ogni antifascista il mito di Stalingrado risuona. Van Loon si interroga su come parlare di una guerra nello stesso territorio in cui un'altra è in corso. Infatti, oggi, gennaio 2023, la Russia non ha cessato la guerra contro l'Ucraina. Parole come antifascismo, patria, denazificazione sono totalmente sconvolte dallo scenario della guerra di Putin e sembrano così lontane da un certo immaginario antifascista. Come sono cambiate le parole pace e guerra, quali sono i luoghi e i confini delle guerre passate e presenti? Sotto una certa confusione lessicale non abbiamo risposte semplici da propaganda o da talk show, ma un sacco di domande. Le tre offensive tedesche lanciate contro Stalingrado in settembre, ottobre e anche in novembre erano state altrettante vittorie, ma vittorie di Pirro. In nessuna di esse i soldati della Wehrmacht erano riusciti a far cessare i combattimenti e a costringere gli uomini e le donne sovietiche ad abbandonare definitivamente la città. Tra i soldati tedeschi comincia a farsi strada il pensiero di poter restare imprigionati in quella selva di casematte e di appartamenti in cui si annidano decine di invisibili cecchini. In prima linea si inizia a chiamare la città Der Kessel, il calderone, un termine del gergo militare per indicare una sacca nella quale rischiano di rimanere inchiodate le truppe tedesche. Quando nasce, nel dicembre del 1905, Vasili Grossman non si chiama davvero Vasili. Il nome che viene registrato all'anagrafe della cittadina ucraina di Berdyshev, infatti, è Iosif Solomonovich. Berdyshev è uno dei maggiori insediamenti ebraici della Russia europea e anche i genitori di Vasili sono ebrei. Ebrei un po' particolari, però. Entrambi sono ben poco osservanti e quando una tata russofona inizia a chiamare il piccolo Iosif Solomonovich con quel nome russo, Vasili, iniziano a chiamarlo così anche loro. Vasili vuole diventare un ingegnere chimico, come suo padre, e per questo si iscrive all'Università Statale di Mosca. Mentre segue le lunghe lezioni di matematica, fisica e chimica, inizia a scrivere dei brevi racconti. Uno di questi, nella città di Berdyshev, finisce tra le mani di Maxim Gorky e di Mikhail Bulgakov, che lo trovano di loro gusto. Vasili, che nel frattempo si è sposato ed è finito a lavorare a Stalino in una miniera di carbone e poi in una fabbrica di matite, torna a Mosca con l'aureola di giovane promessa della letteratura sovietica. Nel 1937, mentre decine di artisti e poeti cadono sotto la scure del KGB, viene ammesso nella potentissima Unione degli Scrittori. E quando la sua nuova moglie, Olga Mikhailovna, viene arrestata dalla polizia in qualità di ex moglie dello scrittore Boris Guber, a sua volta trascinata alla Lubianca, Vasili non si scompone. Tira fuori carta e penna e scrive una lettera a Iezov, il temutissimo capo dell'NKVD. Nessuno sa cosa ci sia scritto in quella lettera. Fatto sta che Olga torna a casa, sana e salva. Vasili non lo può immaginare, ma la forza della sua scrittura avrà ragione anche dell'oblio al quale lo condannerà Stalin dopo la fine della Grande Guerra Patriottica. Quella guerra che lui saprà raccontare così bene, forte dei 1000 giorni passati al seguito dell'Armata Rossa, più di ogni altro reporter. Quella guerra nel corso della quale i tedeschi uccideranno sua madre, assieme agli altri 20.000 ebrei di Berdyshev. Quella guerra che lo porterà nel 1944 ai cancelli del lager di Treblinka con le truppe liberatrici, incredule di fronte all'immensità dell'Olocausto. L'errore di Vasili sarà proprio quello di scriverne di Treblinka e della scomparsa degli ebrei russi. Dopo il 1945 Stalin, deciso a sfruttare l'antisemitismo come leva politica, non vorrà sentire parlare di ebrei e nemmeno delle altre opere di quel Grossman. Quando morirà di cancro allo stomaco nel 1964, Vasili penserà di essere un fallito, un dimenticato. Non immagina che molti anni dopo, Stalingrado e Vita e Destino, i suoi capolavori, verranno definiti il guerra e pace del XX secolo. La valenza strategica e simbolica della città aveva fatto saltare ogni regola nella condotta di guerra. Anzi, Per quanto non esistano dati e informazioni certe al riguardo, sembra che Stalin, nonostante l'evacuazione generale, avesse ordinato espressamente che una quota di civili fosse trattenuta in città, al fine di motivare i soldati nella difesa. L'ordine, non un passo indietro, comunque, avrebbe lasciato ai soldati poco margine di scelta, se non un rischiosissimo tradimento. Paradossalmente, nelle memorie di molti reduci, la consapevolezza di non poter più arretrare aveva dato loro una capacità di essere attori e artefici del proprio destino che gli anni duri dello stalinismo gli avevano sottratto. Che cosa voleva dire quindi combattere per un paese totalitario per i soldati sovietici? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Savino, storico dell'Università Federico II, esperto di storia russa, autore quest'anno di Il nazionalismo russo 1900-1914, identità, politica e società, per Federico II University Press. Questo è uno dei grandi dibattiti che vi sono fra gli storici. Diciamo così che inizialmente di sicuro è stato un limite perché noi sappiamo dai documenti che in realtà la dirigenza sovietica, Stalin per primo, credesse impossibile la possibilità di un attacco della Germania nazista, tant'è che la spia più importante che l'URSS aveva in quel momento, Richard Zorge, che era un agente che si era infiltrato nell'ambasciata tedesca a Tokyo, aveva più volte mandato dei messaggi a Mosca che erano stati classificati come menzogne, bugie da non credere. Però dall'altro lato il sistema totalitario, e anche su questo termine vi sarebbe molto da discutere, chiamiamolo il sistema stalinista, riesce a un certo punto a reagire, e riesce anche a reagire di fronte a quelle che erano i crimini commessi dai nazisti e dai loro alleati provenienti da mezza Europa, perché si parla di milioni di civili uccisi. Soltanto per fare un esempio, così la Bielorussia, che nel 1939 contava 10 milioni di abitanti, per raggiungere la stessa cifra dovrà aspettare il 1971, perché in quella Repubblica Sovietica vengono distrutti più di 6.000 villaggi, ci sono tra il 1,5 milione e i 3 milioni di morti, viene sterminata completamente la comunità ebraica. Quindi, come dire, da un certo punto di vista il sostegno che viene al regime era anche un sostegno dovuto alla tattica genocidaria del nazismo, che voleva liberare quei territori per farci il proprio Lebensraum. Nonostante l'ultimo attacco di inizio novembre porti Paulus e la Sesta Armata tedesca ad un solo passo dalla sconfitta di Chuikov e dei suoi soldati, alla metà del mese lo Stato Maggiore tedesco ordina un disimpegno di truppe in favore della linea del Don, della quale teme la fragilità. È l'occasione che Stalin e Zhukov aspettavano per far partire l'operazione Urano, una gigantesca manovra a tenaglia per chiudere tra il Don e il Volga le truppe tedesche ammassate a Stalingrado. Stalin in particolare aveva l'urgenza di ottenere una vittoria. Lo aveva promesso al popolo sovietico il 7 novembre, in occasione del 25esimo anniversario della rivoluzione. L'operazione viene quindi battezzata Urano, il mitico padre dei titani. E mentre Chuikov e i suoi uomini continuano a tenere impegnati i tedeschi tra le rovine della città, l'esecuzione del gigantesco attacco a Geran viene affidata al generale Andrei Ivanovich Eremenko. Il nuovo comandante, appena giunto a Stalingrado, il colonnello generale Eremenko, era un cinquantenne corpulento col viso tondo, il naso piccolo, i capelli a spazzola sulle rughe della fronte ampia e lo sguardo vispo dietro agli occhiali con la montatura metallica in uso ai maestri di campagna in là con gli anni. Zoppicava leggermente per una ferita alla gamba. Eremenko aveva combattuto da caporale la guerra del 14-18 e ricordava spesso e volentieri quegli anni. I suoi ufficiali d'ordinanza potevano indicare al secondo, o quasi, il momento in cui il generale avrebbe attaccato a parlare dello scontro alla baionetta in cui aveva infilzato 20 tedeschi. Eremenko conosceva le fatiche della guerra, dalle difficoltà di base dei soldati semplici alle altezze dei comandanti. Per lui la guerra non aveva nulla di straordinario e l'uniforme da generale era come la tuta dell'operaio. Era una divisa da lavoro, non da parata. Parchomenko, la sua ordinanza, lo avrebbe voluto più elegante e più prestante di tutti gli altri pari grado, ma si era dovuto rassegnare. Eremenko aveva sempre le spalle e il petto canuti di cenere di sigaretta e la giacca macchiata di inchiostro e non solo. In più, corpulento e un po' curvo com'era, non rendeva la vita facile ai sarti. Nell'estate del 1941, Eremenko era a capo delle truppe di un settore del fronte occidentale. Il suo nome era tutt'uno con l'operazione che aveva fermato l'offensiva tedesca nella testa di ponte di Smolensk. Quello stesso agosto gli era stato affidato il comando del fronte di Bryansk, che ai suoi ordini si era opposto tenacemente, ma invano, alle unità corazzate di Guderian, che avevano sfondato in direzione di Orel. Nell'inverno del 41, però, alla testa del fronte nord-occidentale, Eremenko aveva aperto una breccia profonda nella difesa nazista. Era arrivato a Stalingrado nei giorni peggiori della ritirata nella steppa e si sarebbe potuto pensare che quel soldato da paludi e foreste, abituato a linee del fronte tendenzialmente stabili per tutta la guerra, non si sarebbe raccapezzato nelle nuove condizioni. Il 19 novembre del 1942 scatta l'offensiva sovietica e centinaia di migliaia di soldati e mezzi corazzati si rovesciano sulle due deboli armate ungheresi che presidiano i fianchi dell'immenso saliente al cui vertice stanno Stalingrado e la sesta armata tedesca di Paulus. All'inizio Paulus sottovaluta la letalità della manovra sovietica. Solo quando inizia a rendersi conto della drammaticità della situazione, inoltre a Hitler la richiesta di poter effettuare una ritirata strategica. Ma Hitler non vuole sentir parlare di ritirate. Non un passo indietro, ripete al suo generale anche il dittatore tedesco. Il 25 novembre del 1942, dopo meno di una settimana di combattimenti, la sesta armata e buona parte della quarta armata corazzata tedesche sono fra i 250.000 e i 280.000 soldati, rimangono accerchiate tra le rovine di Stalingrado. Il fuoco sotto il calderone era stato acceso e la guerra iniziava a cambiare volto. Durante il primo mese di accerchiamento, Paulus e i soldati tedeschi chiusi nella sacca di Stalingrado non sono particolarmente preoccupati. Qualcosa di simile era già successo l'inverno precedente davanti a Mosca, ma era bastato tenere dure e aspettare l'immancabile contrattacco delle forze corazzate che aveva puntualmente riaperto i collegamenti con le retrovie. Naturalmente anche l'ordine tassativo, Führerbefehl, diramato da Hitler che vieta qualunque ritirata, gioca un suo ruolo, come la fiducia diffonde nella potenza della Wehrmacht. E l'idea che con un ponte aereo sia possibile mantenere il flusso di rifornimenti. Ma se Paolo sia tranquillo, alcuni dei suoi sottoposti iniziano a vederla molto diversamente. Militari di carriera, discendente di una nobile famiglia prussiana di antiche tradizioni militari, Walter von Seydlitz-Kurbach, è il comandante del 51esimo corpo d'armata, aggregato alla gigantesca sesta armata tedesca chiusa nella sacca di Stalingrado. Per mesi e mesi von Seydlitz era stato giorno e notte in prima linea ad organizzare assalti e combattimenti in un contesto bellico che gli riusciva sempre meno comprensibile. Quando la tenaglia sovietica si era infine chiusa alle spalle della sesta armata, era stato uno dei primi ufficiali tedeschi a votare per la resa, rendendosi conto della realtà della situazione. Ovviamente, né Paulus né Hitler gli avevano dato ascolto. Il 25 gennaio del 1943, von Seydlitz dice ai suoi soldati, semplicemente, che sono liberi di decidere sul da farsi. Una libertà di scelta della quale la maggior parte di loro, abituati all'obbedienza cieca, semplicemente non sa cosa fare. Sfiduciato dalla stolida passività di Paulus, alla fine von Seydlitz si consegna ai sovietici prima della resa finale. Nel giro di poco tempo, quest'uomo, che agli occhi dei suoi soldati aveva sempre rappresentato la tradizione militare prussiana in tutto il suo conservatorismo e autoritarismo, diventa uno dei portavoce del Comitato Nazionale Germania Libera, l'organizzazione dei tedeschi antifascisti che l'Armata Rossa mette in piedi per indebolire ulteriormente il morale della Germania nazista. Hitler è furibondo, von Seydlitz viene condannato a morte in absentia, i suoi familiari messi agli arresti dalla Gestapo. E non è solo il regime nazista a considerarlo un morto che cammina. Anche i suoi ex colleghi, gli altri ufficiali tedeschi fatti prigionieri dai sovietici, lo disprezzano e lo considerano un traditore. Ma il colmo è che questo sforzo di ricostruirsi una virginità politica non gli risparmierà, dopo la resa della Germania, un processo per crimini di guerra. Condannato a 25 anni di reclusione, von Seydlitz rimarrà in prigionia fino al 1955. Pochi mesi dopo tornerà in Germania, il paese che aveva lasciato l'ultima volta 14 anni prima per combattere una guerra di sterminio. Alla stazione di Amburgo nessuno lo accoglierà a braccia aperte. È una settimana che continuo a pensare a questa lettera sempre rinviata, pensando che l'incertezza fosse sì tormentosa, ma contenesse pur sempre un barlume di speranza. pensavo anche alla mia sorte. Ed ogni notte sono entrato nel sonno portandomi dietro l'incertezza della nostra situazione, che oscillava fra salvezza e rovina. Non ho nemmeno cercato di rendermene chiaramente conto, forse per vigliaccheria. Già 3 volte avrei potuto giacere sottoterra, ma sarebbe stato sempre all'improvviso, di sorpresa, senza preparazione. Ora è diverso, da stamattina conosco il verdetto e mi sento tanto più libero. Anche tu, quindi, devi essere liberata da questa incertezza angosciosa. Mi sono spaventato quando ho visto la carta. Siamo completamente isolati, senza aiuto da al di fuori. Hitler ci ha lasciati. Questa lettera parte ancora, se l'aeroporto è ancora in nostre mani. Siamo al nord della città. Anche gli uomini della batteria lo intuiscono, ma non lo sanno altrettanto chiaramente e in modo certo come me. È così dunque che si prospetta la fine. In prigionia, Anne ed io non ci andiamo. Ieri ho visto 4 uomini fatti prigionieri dai russi, dopo che la nostra fanteria ha ripreso l'avamposto. No, in prigionia non ci andiamo. Quando Stalingrado cadrà, tu lo sentirai e lo leggerai e allora saprai che io non ritorno. Effettivamente, in dicembre lo Stato Maggiore tedesco cerca di rompere l'assedio, incaricando del compito il feldmaresciallo von Manstein, uno dei suoi migliori strateghi. Ma anche von Manstein non può nulla contro la determinazione dei sovietici e contro la valanga di mezzi e materiali accumulata da Zhukov per alimentare costantemente l'accerchiamento. Il Natale del 1942 a Stalingrado, dal lato dei nazisti, è un giorno cupo, l'anticamera della fine. Per raccontare quel Natale di guerra, che per molti sarebbe stato l'ultimo, ci siamo serviti del libro Ultime lettere da Stalingrado, in cui sono raccolti i messaggi che soldati e ufficiali tedeschi scrissero dalla sacca e che partirono con l'ultimo aereo decollato in direzione Germania. Per quanto manipolate dalla censura e oggetto nel secondo dopoguerra di alcune operazioni editoriali non del tutto limpide, alcune di esse rimangono una potente testimonianza. Non si tratta, come sostiene la nota dell'editore alla versione italiana, di lettere di condannati a morte, perché ancora non avevano la certezza che non sarebbero stati salvati da un miracoloso contrattacco. Tuttavia, presagivano quella che sarebbe stata la probabile fine per molti di loro. Il dolore, la paura, si nutrono a vicenda della sensazione di non poter più abbracciare i propri cari. Una sorta di presa di consapevolezza collettiva. Da questa maledetta città ti ho già scritto 26 volte. E tu? Mi hai risposto 17 lettere. Ora ti scrivo ancora una volta e poi mai più. Ecco, l'ho detto. Ci ho pensato a lungo cercando la maniera di formulare questa frase così importante e dirti tutto in modo però da non farti tanto male. Mi congedo da te perché la decisione è stata presa già da stamattina. Non voglio toccare nella mia lettera l'aspetto militare della questione. È un fatto che riguarda solo i russi. Si tratta soltanto di vedere per quanto tempo ancora noi dureremo. Ancora un paio di giorni o un paio d'ore. Abbiamo davanti agli occhi la nostra vita. Ci siamo rispettati, amati e abbiamo atteso per 2 anni. È stato giusto, in un certo senso, che il tempo ci abbia diviso. Ha aumentato il desiderio di rivederti, ma ha pure facilitato di molto il distacco. Ed è il tempo che può rimarginare la ferita per il mio mancato ritorno. In gennaio avrai 28 anni. È ancora un'età molto giovane per una donna tanto bella. Ed io sono contento di averti sempre potuto fare questo complimento. Sentirai molto la mia mancanza, ma non sfuggirai gli altri per questo. Ti scrivo queste righe col cuore pesante. Del resto, tu non mi crederesti se ti dicessi che mi è facile scrivere così. Ma non ti preoccupare, non ho paura di ciò che avviene. Il 2 febbraio del 1943, il generale Paulus contatta il comando sovietico e si arrende con tutte le unità tedesche chiuse nella sacca di Stalingrado. È la fine della battaglia. Inizia così il mito della grande guerra patriottica, la cui genesi ci ha raccontato Andrea Borelli, assegnista di ricerca presso l'Università della Calabria, che nel 2021 ha pubblicato Gorbaciov e la riunificazione della Germania, l'impatto della perestroica sul comunismo 1985-1990 con l'editore Biella. Sostanzialmente già nel 1946 viene organizzata la prima parata militare del 9 maggio per festeggiare la vittoria contro il nazifascismo in Unione Sovietica. E quindi già lì sostanzialmente viene mitizzata quella che era una guerra, ovviamente poi vista anche da gran parte della popolazione come un grande momento di riscossa patriottica, come una grande vittoria da poter vantare di fronte a tutto il mondo. Perciò diciamo il mito nasce sia come volontà del regime evidentemente di fin da subito elevare la guerra e la vittoria per autolegittimarsi, sia però come sentimento condiviso e comune tra la popolazione sovietica, che ovviamente di quella vittoria era la vera artefice. A 80 anni dalla battaglia di Stalingrado, Vallun si interroga su come parlare di una guerra passata, realizzatasi però sullo stesso territorio in cui oggi ne è in corso un'altra. Ai tanti interrogativi da cui siamo partiti, quindi, ne abbiamo aggiunto un altro che abbiamo condiviso con le storiche e gli storici da noi intervistati. Come viene usata oggi, nel contesto dell'attuale guerra russo-ucraina, la memoria della battaglia di Stalingrado? La questione è che, diciamo, più in generale loro utilizzano la memoria della Seconda Guerra Mondiale, quindi della Grande Guerra Patriottica. Quanto riguarda la battaglia di Stalingrado, rientra all'interno di questa dinamica come un grande momento di riscossa, grande momento di resilienza del popolo russo, e quindi diciamo come precedente. Cioè i russi, cosa si racconta il regime? I russi sono quelle persone lì, cioè sono quelle persone che hanno resistito, che hanno vinto una battaglia come quella di Stalingrado e che quindi, come dire, resisteranno se c'è bisogno ancora una volta all'attacco del mondo esterno, degli occidentali. Perciò, come dire, è diventato uno strumento di autocelebrazione di una presunta superiorità imperiale, verrebbe da dire, rispetto ai nemici storici occidentali. Perciò è chiaramente, ha assunto dei caratteri aggressivi molto forti. Altra cosa poi è, concludo qui, diciamo, se questo funziona con la popolazione, nel senso che la popolazione è molto legata al ricordo della guerra di Stalingrado. Voi pensate ad esempio che nel 2013 c'è stato un film Stalingrado che è stato un grandissimo successo di pubblico in Russia, è l'unico negli ultimi 20 anni che, diciamo, ha ottenuto un consenso, un box office superiore dei grandi broadcaster, insomma, dei grandi film americani. È l'unico quello, quindi diciamo, vuol dire che Stalingrado ha un suo peso nell'immaginario collettivo russo. E quindi evidentemente questo è un modo che il regime ha di utilizzare degli elementi facilmente, diciamo, a cui sono sensibili i russi per i propri giochi. Se questo funziona o meno è difficile dirlo, quindi se, diciamo, il modo in cui il putinismo utilizza la battaglia di Stalingrado funziona o meno, questo lo potremmo misurare solo nel tempo. Sicuramente la forza di questo tipo di messaggi è che si basano su un senso comune che in Russia c'è, che guarda quegli eventi con grande ammirazione, con grande, diciamo, con grande reverenza. Ecco, su questo il putinismo gioca senz'altro per legittimare le sue politiche. Stalingrado è il simbolo di chiunque si sia dichiarata antifascista almeno una volta. Risuona nelle canzoni, nelle battute da bar, nella memoria storica, civile e militante. Vallun è il programma di storia di Radio Città Fujiko, fatto da Frey, Debs, Alessia, Lara e Olga. Le 4 puntate dedicate a Stalingrado sono uno speciale che abbiamo chiamato Al Volga non si arriva, costruito anche grazie al prezioso lavoro di Jacopo Lorenzini. Se gli storici del futuro vorranno capire quale fu il punto di svolta della guerra, dovranno arrivare in quel tratto del Volga, immaginarsi un soldato seduto ai piedi della roccia e provare a figurarsi cosa stava pensando. Con questa citazione di Vasilij Grossman vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima domenica alle 11, oppure in podcast su radiovanlun.info.